in primo piano. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Prima di iniziare però a vedere le prime pagine dei giornali, devo a tutti, in particolare a chi ci ascoltava ieri, delle scuse per due brutti errori che ho fatto partendo da articoli del giornale. E il primo errore... Mi sono in realtà già scusata ieri su Twitter e Facebook, ma non vedevo l'ora di farlo anche in diretta. Il primo errore è stato dire che Benito Mussolini fu impiccato e poi appeso a testa in giù in Piazzale Loreto a Milano. Invece fu prima fucilato e poi appeso a testa in giù in Piazzale Loreto. Il secondo errore, più grave, è stato quello di indicare il 1918 e non il 1945 come anno della fine della Seconda Guerra Mondiale. Deve esserci stato una specie di cortocircuito nella mia mente tra i conflitti e le due date, legato, credo, al fatto che un po' forzatamente volevo collegare due pezzi che erano a distanza di poche pagine sul giornale di ieri. Uno scritto dal Mussolini giornalista del 1918 e l'altro invece che era del, raccontava l'arresto di Mussolini e come all'inizio si fosse pensato a un processo e che poi invece non c'è stato e c'è stata infatti l'esecuzione. Non è finita, perché in questo cortocircuito tra guerre mondiali ho anche detto che nella prima guerra mondiale l'Italia era alleata della Germania. Falso. Vero invece che poi c'è stato, tra l'altro, mio nonno tedesco credo si sia rivoltato nella tomba, i miei familiari che mi ascoltavano si sono rivoltati da vivi. In ogni caso, veramente mi scuso, starò molto più attenta, volevo solo chiarire che non penso ci sia stato dolo, però la colpa sì, perché ho fatto appunto questi due brutti errori. Stamattina sono arrivata mezz'ora prima, ho cercato di controllare tutto il controllabile, spero che non mi sfugga qualcosa anche oggi, ma veniamo appunto finalmente alla prima pagina del Sole 24 Ore, che a proposito di numeri apre sull'ennesima giornata di rally del prezzo del petrolio, che sapete per tanti mesi era sceso, causando a catena una serie di altri effetti su varie economie, in primis quella russa, ma anche in quelle dei paesi dell'OPEC, il principale cartello di produttori del petrolio. E il titolo infatti del Sole 24 Ore è «Il petrolio spinge le borse, banche però di nuovo sotto pressione». La puntata, non casualmente, di oggi della serie Investire con il Sole, dove da ormai 10 giorni si affiancano gli andamenti in borsa dei titoli di un certo settore alle semestrali, quindi ai fondamentali, cioè ricavi, indici di redditività, indebitamento delle aziende per vedere se c'è o no una correlazione tra l'economia reale e l'andamento in borsa, dicevo la puntata di oggi è proprio dedicata al petrolio e anche come materia prima all'oro. È richiamato in prima pagina l'articolo, poi lo trovate a pagina 2. Naturalmente anche il Sole 24 Ore mette in prima pagina la foto di questo bambino, si chiama Omran Daknesh, è un bambino di Aleppo, sfuggito per fortuna insieme alla sua famiglia al bombardamento alla sua casa, sfuggito nel senso no, non è sfuggito al bombardamento, ma non è morto, è stato anzi salvato da soccorritori. E la foto che c'è su tutti i giornali è in realtà un fotogramma di un video appunto girato dai soccorritori che lo sollevano dalle macerie e lo mettono nell'ambulanza. L'articolo che il Sole 24 Ore ha affidato a Giulia Carcasi, che è una scrittrice giovane del 1984, quindi una millennial, il termine con il quale si indicano tutti i giovani appunto nati dal 1984 circa al 2000, il suo ultimo libro del 2012, e il suo commento inizia in prima pagina e poi lo trovate a pagina 7. Dopo la pausa per il traffico magari ve ne leggo un pezzettino. L'altro intervento sul Sole 24 Ore è la trascrizione della Lectio De Gasperiana, che si tiene ogni anno, la tiene il Presidente della Repubblica, è un ricordo, si parte sempre appunto dalle idee, dal ricordo di quello che Alcide De Gasperi è stato per l'Italia come politico e come uomo, e Sergio Mattarella Questo intervento è pubblicato, inizia in pagina 1 e poi continua a pagina 14 integralmente dal Sole. Il titolo è Brexit, l'Europa e la lezione di De Gasperi, perché tra i molti meriti di De Gasperi ci fu anche quello di essere un europeista ante litteram. Vi dicevo, volevo leggervi una parte di questo articolo di commento alla vicenda del bambino di 5 anni salvato dai bombardamenti di Aleppo, si chiama Omran. La foto è su tutti i giornali, sul Sole 24 Ore, commenta Giulia Carcasi, e vi leggo l'ultima parte. L'immagine di Omran è straziante. Sono strazianti le immagini di tutti i bambini che attraversano la guerra e la guerra li attraversa. Smettiamo di chiamarli simboli. Restituiamo alla loro dimensione umana il loro è al loro vero significato, torniamo a chiamarli creature. È urgente ricordare che sono l'unico frutto della creazione, tutto il resto non si crea, si produce. L'anima e la pelle non possono essere considerate e trattate alla stregua di qualunque materiale. Omran Daknesh ha appena 5 anni, ma dimostra la vecchiaia del male. Diventeranno adulti bambini come lui, da insensibili o frantumati, che società creeranno? Chi si illude di poter tradurre tutto in termini di dominio e profitto è così sicuro di saperne gestire in futuro i risultati? Quello che abitiamo è ormai un mondo senza riposo. Forse un giorno, per salvarci, ci servirà un sogno e non sapremo più farne uno. E poi ci sono tantissimi altri commenti, per esempio il Corriere della Sera, che pubblica la foto ancora più grande. Devo dire che oggi veramente tutti hanno in prima pagina questa foto. E il titolo però è più generale: Siria in agonia, aiuti bloccati. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. L'ONU ha chiesto a più riprese una tregua per portare aiuti umanitari, ma anche generi alimentari, nella città assediata di Aleppo. Ha chiesto una tregua perché non si interrompono i bombardamenti, i combattimenti all'interno della città, combattimenti di terra e soprattutto i bombardamenti dall'alto, dall'aviazione russa in particolare. E questa tregua finalmente è stata offerta, durerà 48 ore, l'ONU dice che comunque è molto poco, sarà molto rischioso cercare di tentare questa operazione umanitaria in sole 48 ore, ma comunque si tenterà. Il commento alla foto di Omran è affidato alla scrittrice Dacia Maraini, che è di un'altra generazione rispetto a Giulia Carcasi, ma ovviamente anche lei è titolatissima a commentare su una vicenda come questa. Il titolo è Sangue, polvere e orrore, la guerra sul viso di un bambino. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche la notizia che avete sentito nel GR della presa di posizione molto chiara di Angela Merkel sul burqa, che naturalmente poi viene discussa anche insieme a quella del burkini, che è il costume, un nome tra l'altro che ci siamo inventati noi occidentali, che indica appunto un costume da bagno che copre tutto il corpo, in realtà a differenza del burqa che copre tutto, perché sapete che c'è soltanto una piccola rete per permettere di vedere, ma non mostra neanche gli occhi. Comunque, da una parte il burqa che Angela Merkel ha bocciato, e poi il burkini che sappiamo nei giorni scorsi invece è stato vietato di fatto in Francia, e chi lo indossa in spiaggia sulla carta è passibile di ricevere una multa. Sulla Repubblica stessa scelta, anche se, come vi dicevo, le foto sono tratte da un filmato, quindi sono leggermente diverse una dall'altra. In quella della Repubblica Omran si tocca l'occhio ferito. Il commento qui è di Vittorio Zucconi, una preghiera muta, inizia in prima pagina, lo trovate a pagina 33. Il titolo proprio principale non è tanto sull'assedio di Siria, di Aleppo, e sulla guerra civile in Siria come il Corriere, ma sulle dichiarazioni di Angela Merkel. Merkel contro il burqa e il suo virgolettato più forte, che è stato frena l'integrazione. In prima pagina anche si torna sulla questione di Capalbio, sapete, perché se ne è parlato anche ieri al programma della mattina di Radio 24, ma cos'è quest'estate? La vicenda di Capalbio, cioè Capalbio, che è un comune in provincia di Grosseto, come tutti i comuni italiani, sulla carta sempre dovrebbe accogliere un certo numero di profughi. A Capalbio però c'è stata una specie di piccola ribellione. Forse alcune parole sono state amplificate, altre travisate, però la sostanza sembra che la maggior parte degli abitanti di Capalbio siano contrari ai profughi. Che cosa c'è di particolarmente, che si presta particolarmente a commenti e interpretazione? Cioè che Capalbio è storicamente una delle mete vacanziere di quella che, per semplificare naturalmente, possiamo definire l'intelligenza di sinistra. E quindi si è riproposto soprattutto da destra, ma non solo, perché ieri abbiamo visto come il governatore della regione Rossi, che è del PD, abbia stigmatizzato questo atteggiamento. Quindi si è naturalmente amplificata la polemica dicendo: ecco, questo è essere di sinistra, essere sulla carta favorevoli all'immigrazione, poi però contrari quando ce l'abbiamo insomma, proprio nel nostro backyard, come dicono gli americani. Va bene qualsiasi cosa, but not in my backyard, a cui l'acronimo NIMBY, con cui si indicano tutte le persone che appunto sono favorevoli a innovazioni o per esempio le nuove opere pubbliche, a patto che non siano vicino a casa loro. Il commento è affidato a Roberto Saviano, che forse un po' per ironia della sorte, benché venga identificato come appunto un intellettuale di sinistra, lui in realtà ha spesso detto che le sue radici sono in realtà in un'altra, vengono da un'altra parte politica, però tant'è, sappiamo che insomma è stata anche una delle icone televisive di Fabio Fazio, che con quella parte, con l'intelligenza di sinistra, è sicuramente identificato. In ogni caso, dicevo, ironia della sorte, a lui è affidato il commento, peraltro molto duro, si intitola I profughi a Capalbio, l'ultima spiaggia della sinistra. Il luogo simbolo dell'Italia radical chic doveva dare una risposta diversa. La stampa ha ancora la foto di Amran, anche qui vi dicevo sono tutte un po' una diversa dall'altra, è proprio seduto su questo seggiolino dell'ambulanza. Il titolo è simile a quello del Corriere: Inferno Aleppo, fragile tregua sotto le bombe. Tra l'altro molti giornali poi all'interno, quando approfondiscono la questione, quindi tutto quello che è successo ieri a Aleppo e l'annuncio di questa tregua, pubblicano altre foto sempre scattate tratte da questo filmato, che quindi sembrano foto scattate all'interno di questa ambulanza. Quella scelta dalla stampa è diversa da tutte le altre, perché in questa foto, oltre a Amran che è seduto sul seggiolino in fondo, c'è anche un'altra bambina, sembrerebbe un po' più grande, anche lei salvata dai soccorritori e portata in ambulanza. Il Messaggero, l'agonia di Aleppo, stessa fotografia. Il titolo principale però è dedicato alla manovra dell'autunno, e dell'autunno probabilmente caldo dal punto di vista economico e sindacale. Si parlerà anche ma cos'è quest'estate, dopo il GR delle 8, e questa oggi ci sarà Deborah Rosciani. Il titolo del Messaggero è Ipotesi tassa per i giganti di internet. Anche in questo forse avete ricordato negli scorsi mesi, ma addirittura negli scorsi anni, la questione di come tassare questi giganti di internet, che naturalmente hanno fatturati e profitti altissimi anche non soltanto nei loro paesi di origine, principalmente gli Stati Uniti e poi ormai anche i cinesi, i colossi cinesi che fanno veramente ormai concorrenza, asiatici in generale, perché per esempio ieri ci sono stati i risultati di Samsung spettacolari. Quindi hanno naturalmente i risultati più, i loro mercati principali in generale sono gli Stati Uniti e appunto il mercato asiatico da cui provengono, ma sono sempre più forti anche in Europa e quindi dovrebbero avere anche profitti altrettanto alti, altrettanto tassabili. Non succede sempre così, per un intrigo di evasione o meglio di elusione. Tra l'altro, proprio ieri, per esempio, la Gran Bretagna, una delle prime mosse della Premier Theresa May è stata proprio di annunciare una stretta sulla tassazione delle multinazionali che si trasferiscono a Londra. Secondo il Messaggero, il governo sarebbe studiando un prelievo sui profitti delle multinazionali. Pensate, si potrebbe. La stima è addirittura di 3 miliardi. Non sappiamo esattamente quanto sarà la manovra finanziaria, e potrebbe quindi addirittura essere circa il 10% della manovra finanziaria. Sul Messaggero, insomma, un nome che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo, Oscar Giannino, che scrive per il Messaggero. Il suo articolo si intitola, che continua poi a pagina 20, prima si parli di produttività e poi di salari. E questo, in questo l'aggancio non è alla manovra, ma alla discussione di cui avete sentito anche nei giorni scorsi sul rinnovo del contratto agli statali, ai dipendenti della pubblica amministrazione. Avvenire, a sua volta pubblica la foto di Omran, il titolo Solo bombe su Aleppo e la sua gente. Il commento è del direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio, Gli occhi di Omran. Molti giornali naturalmente ritornano sulle dichiarazioni di Cantone, l'avete sentito anche nel GR, su questa questione della legalizzazione delle droghe leggere, in particolare della marijuana, la cannabis. C'è un progetto di legge la cui discussione è stata interrotta dalla lunga pausa perché si sono presi i nostri parlamentari, se ne riparlerà a settembre, e intanto però la discussione continua fuori dal Parlamento. L'Unità è quella che pubblica la foto di Omran in dimensione maggiore, e non, francamente non capisco bene perché, ma il titolo lo fa in inglese. Il titolo è My Name is Omran. Il sommario non si ferma al massacro dei civili di Aleppo, ma si ferma alla task force umanitaria dell'ONU. Non so, mi sembra quasi un po' ingeneroso nei confronti dell'ONU, perché se io tante volte ho detto che l'ONU ha dato in passato, il caso più palese è l'assedio di Sarajevo dal 92 al 95 e il genocidio in Ruanda, se a volte l'ONU appunto ha dato l'impressione di non riuscire veramente a intervenire positivamente nelle crisi o addirittura nei genocidi, in questo caso ha fatto di tutto, è stato proprio l'ONU a chiedere la tregua, solo che la tregua deve essere accettata soprattutto dai bombardieri russi. Quindi comunque l'Unità specifica: Putin ora promette una tregua di 48 ore, ma la prossima settimana, e la strage continua. E siccome avete sentito anche dell'ultimo annuncio di Matteo Renzi, che promette un nuovo taglio di tasse, e delle reazioni del Movimento 5 Stelle, ma anche della Lega, delle opposizioni in generale, che hanno bollato questo come l'ennesimo annuncio che non farà che esasperare le aspettative e poi le aspettative tradite delle persone, accanto alla foto di Omran c'è questo intervento, questo stralcio di quello che ha detto Renzi. Questa è la scelta fatta dall'Unità, suppongo dal suo direttore Erasmo De Angelis, che invece si dedica alla vicenda di Omran, e il titolo di questo pezzo di Matteo Renzi: La verità sulle tasse. Il Giorno pubblica a sua volta la foto di Omran, però il titolo principale è legato a quello di cui ci siamo occupati ieri, cioè la proposta del prefetto Morcone, che è anche capo del Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero degli Interni, di cercare in qualche modo di, magari prendendo esempio da quello che succede già in altri paesi europei, di dare un lavoro magari socialmente utile, pagato anche pochissimo o magari addirittura non pagato, però in cambio per esempio di un alloggio e di cibo garantito, dare un lavoro ai profughi. Il Giorno titola Il bluff dei profughi al lavoro. Per i sindacati hanno immediatamente reagito dicendo che potrebbero essere d'accordo, a patto che si tratti solo di volontariato, e secondo le dichiarazioni raccolte dal Giorno, molti migranti in realtà si oppongono. Stesso titolo più o meno per Libero: i profughi non vogliono lavorare, questo è il titolo di Libero. Pazza idea del capo dell'immigrazione Morcone, vuole affidare a chi arriva occupazioni socialmente utili, ma gli extracomunitari rifiutano di rimboccarsi le maniche, preferiscono farsi mantenere dagli italiani. Sui giornali in realtà, e anche ieri del resto abbiamo visto già alcune storie, trovate molti, molti esempi, senza generalizzare né da una parte né dall'altra, cioè senza dire che non vogliono lavorare o che invece vogliono tutti lavorare, sono tutti disponibili a lavorare, trovate invece molti esempi di immigrati clandestini e non, quindi sfruttati e non sfruttati, che un lavoro in Italia lo hanno trovato o comunque si sono offerti di farlo. Molto duro anche il titolo sulla questione di Capalbio, che si rifà mette nel titolo anche il nome del ministro degli interni Alfano, perché comunque è al ministero degli interni e al ministro che fa capo questo piano di smaltimento dei profughi in tutti i comuni d'Italia. E il pezzo di Filippo Facci: Alfano con 50 rifugiati, cito testualmente, ha sputtanato la sinistra, che poi è un po' anche il senso di quello che dice Roberto Saviano sulla Repubblica. In prima pagina, forse con molto più rilievo che gli altri giornali, il Libero invece aggiorna sulle vicende di Monte dei Paschi. Ieri infatti sono arrivate questi annunci che Alessandro Profumo, ex numero uno di Unicredit e poi presidente della Fondazione Monte dei Paschi, e l'attuale amministratore delegato Viola sono indagati per falso in bilancio. Poi, come avete sentito, in realtà si tratterebbe di un atto dovuto, ma in ogni caso è una notizia, perché a Viola attuale amministratore delegato, è affidato il rilancio o comunque la ristrutturazione della banca. Infatti Libero mette nell'occhiello pensare che dovevano salvare la banca. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, che abbiamo visto tutte pubblicano la foto del piccolo Omran salvato ieri ad Aleppo. Il titolo più originale è forse quello del manifesto, che è 5 anni, perché 5 sono gli anni di Omran, ma 5 sono anche gli anni da cui dura la guerra in Siria. E infatti il sommario dice: nato in guerra, cresciuto in guerra, non hai mai visto un giorno di pace. Il piccolo Omran, salvato dalle macerie di Aleppo, è il volto senza voce del conflitto siriano. Si arrende anche l'ONU, anche qui il manifesto dice così, che sospende la consegna degli aiuti e chiede il cessate il fuoco. In realtà, appunto, perché nonostante non arrivasse la risposta della Russia alla concessione della tregua, l'ONU aveva deciso comunque di procedere, salvo poi accorgersi che sarebbe stata un'impresa disperata quella di tentare il trasporto degli aiuti e dei generi alimentari senza la garanzia di una tregua. Comunque la Russia, abbiamo visto, ha dato questo sì a 48 di tregue, a 48 ore di tregua a settimana. Ma sul fronte invece della guerra, dei negoziati, il manifesto ricorda che la tregua per ora è stata annunciata, ma nessuna delle parti si è detta disposta a sedersi a un tavolo e a negoziare qualcosa di più di una tregua. Il giornale, anche in questo caso, ha la foto di Omran tagliata in un modo leggermente diverso, e poi invece torna sulla vicenda del burkini e del bikini con le dichiarazioni di Angela Merkel. Vi segnalo anche dalla prima pagina, poi lo trovate a pagina 24, un angolo diverso per parlare di Olimpiadi. Laura Rio fa già un bilancio, anche se mancano ancora qualche giorno, le Olimpiadi si chiuderanno ufficialmente domenica 21, fa un primo bilancio di quanto sono costate alla RAI, che ha tantissimi inviati lì. C'era stata anche una polemica prima della partenza, perché il numero degli inviati della RAI era superiore a quello della BBC e di altri grandi network anglosassoni, e quanto invece ha guadagnato, perché come abbiamo sentito nei giorni scorsi, la Rai 2, che sta trasmettendo quasi ininterrottamente, poi Rai Sport 1 e Rai Sport 2 sul digitale terrestre, che stanno trasmettendo quasi ininterrottamente le gare di Rio, hanno anche ascolti molto alti e quindi introiti pubblicitari che salgono. Però comunque il bilancio non torna, e Laura Ria ci racconta: Salasso Olimpiadi, spesi finora 70 milioni di euro, guadagnati 7,5, quindi poco più del 10%. Il Fatto Quotidiano ha anche lui una foto, anche se un po' più piccola, ma è anche il formato del Fatto che è più piccolo rispetto a quello degli altri giornali, la foto di Omran. E poi la questione di Capalbio, Nicola Caracciolo, che è il presidente onorario di Italia Nostra, uomo di sinistra, una delle organizzazioni che difende il patrimonio ambientale e culturale dell'Italia. L'articolo lo trovate poi completo a pagina 20, il richiamo in prima: vi spiego perché Capalbio sarà un ghetto per i rifugiati. Quindi, in un certo senso, difende, non in linea di principio, e questo guardate che è veramente un'acrobazia. In linea di principio sarebbe giusto accoglierli, ma poi in realtà, appunto, Capalbio diventerebbe per loro un ghetto, ergo, forse è meglio non accoglierli. Un altro angolo per vedere le Olimpiadi particolare, trovato dal Fatto Quotidiano, è quello riguardo alle divise. Ho letto sui social, ma anche su altri giornali, insomma, alcune più critiche, devo dire, che elogi a queste divise, forse anche per il loro colore, perché noi sappiamo che il colore della nostra nazionale è l'azzurro e le divise sono nere. E questo articolo spiega come sono nate. In realtà lo avrete sicuramente visto tutti: il simbolo, il logo è EA7, che è una linea di sportswear di Armani. Armani è official sponsor, quindi è anche fornitore delle Olimpiadi, però non lo fa con la sua prima linea, ma appunto con questa linea. E la polemica un po' sulla quale punta il Fatto Quotidiano è: la nazionale targata Armani, questo è il titolo dell'articolo, e poi divise di marca con solo un accenno di Italia, quindi appunto non sono abbastanza caratterizzate come italiane, vuoi per il colore azzurro o magari per una scritta più grande. A proposito di immigrazione e di come organizzare in qualche modo il lavoro di chi arriva qui e come ha, usando secondo me un termine abbastanza sgradevole, come ha detto Chicco Testa qualche giorno fa, evitare che gli immigrati vengano qua a bighellonare, così ha detto, il Foglio ha un approfondimento molto interessante, secondo me, che trovate in prima pagina e poi continua, che si intitola «L'Italia accoglie ma non integra. Lezioni tedesche su lavoro e immigrazione». Oltre alla proposta di Morcone, quella di cui abbiamo parlato, del prefetto e capo del Dipartimento Immigrazione, si può appunto andare oltre, approfondire, non fermarsi al botta e risposta tra opposizione e in questo caso Morcone. In Germania, spiega questa analisi, il richiedente asilo può lavorare quasi subito, però ha immediatamente anche degli obblighi sul imparare la lingua e seguire dei corsi di formazione. E ci sono dei centri per l'impiego che, spiega questa analisi, funzionano bene, o comunque, insomma, se dobbiamo fare il confronto con quelli con l'Italia, che sono sotto accusa da tanto tempo, tant'è che il Jobs Act li ha anche tentato di riformarli, ecco, se facciamo il confronto con quelli dell'Italia, sicuramente è un confronto perdente. La Gazzetta dello Sport non ha in prima pagina la foto del piccolo Omran, poi però c'è nell'ultima parte della Gazzetta, quella che da qualche anno viene dedicata alla cronaca. Pensate che la prima pagina sia dedicata alle Olimpiadi? No, la prima pagina è dedicata al calcio, d'accordo, sta per iniziare il campionato, però come vi dicevo, mancano anche soltanto 3 giorni alla fine delle Olimpiadi, si poteva fare un ultimo sforzo. In ogni caso, la Gazzetta in particolare ha proprio una lunga intervista, che poi trovate a pagina 2 e 3, a John Elkann, che è il presidente di FCA, Fiat Chrysler, e che sta seguendo il calcio, ma anche, dice, con molta passione l'Olimpiade. Il titolo: La mia Juve è da oro. E poi ci sono anche c'è il colonnino con gli aggiornamenti da Rio. Però il primo articolo, questa è la prima pagina della Gazzetta, il primo articolo sulle Olimpiadi lo trovate a pagina 24. Tutto quello che c'è prima è calcio. Con la Gazzetta di oggi anche uno speciale campionato, quindi viene definito l'anno del dragone. Naturalmente il riferimento è a uno dei simboli della Cina, appunto il dragone, al fatto che imprenditori e investitori cinesi controllano ormai, e asiatici, perché poi la compagine azionaria è molto complessa, controllano di fatto sia Inter che Milan. Anche il quotidiano nazionale ha uno speciale dedicato al campionato, e invece non è per il titolo in questo caso è L'anno dei giganti. Sulla vicenda Bikini-Burkini mi ero messa da parte, vi leggo l'ultima parte, un articolo di Michela Marzano, che è una filosofa, ha studiato all'Università di Pisa e poi ha insegnato per molto tempo a Parigi, poi è tornata in Italia, ha fatto anche la parlamentare del PD, è stata eletta e poi ha lasciato il partito in polemica perché non... sostanzialmente diceva che non tutte le promesse che le erano state fatte per portare avanti e lasciarle autonomia e libertà e darle anche sostegno in alcune delle sue battaglie, tra le quali c'era anche quella sulle unioni civili, poi in realtà queste promesse erano state disattese, la sua delusione era tale che preferiva tornare alla sua attività principale, cioè quella di insegnamento e di scrittura dei libri. È una collaboratrice abbastanza fissa di Repubblica. Il titolo di oggi è Bikini, Burkini e senso del pudore. Vi leggo l'ultima parte, il pezzo inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 33. Ogni essere umano, spiegava il padre del liberismo John Stuart Mill, ha come vocazione quella di essere libero, e sarebbe un crimine contro l'umanità non rispettarne l'autodeterminazione. Anche la libertà però ha i suoi vincoli e finisce laddove in suo nome la si cancella, visto che non può essere in nome della libertà che ci si ritrova poi in una situazione di servitù o sottomissione. Il problema allora, nel caso del Burkini, non è tanto la libertà o meno della donna di vestirsi come meglio crede. Su questo siamo o dovremmo essere tutti d'accordo. Il problema sono le condizioni di esercizio della libertà delle donne musulmane. Cosa le spinge o meno a coprirsi? La paura del giudizio o delle sanzioni da parte dei familiari? I precetti religiosi? Il pudore? Certo, la libertà individuale è sempre sacra, ma non ha ragione anche la Corder quando nel XIX secolo ci ricorda, aperte virgolette, che tra il forte e il debole è la libertà che opprime e la legge che affranca? E l'articolo si chiude con un punto interrogativo, perché appunto tutti noi possiamo riflettere su questa questione e farci una nostra opinione. Torniamo sulle pagine interne del Sole 24 Ore, da cui vi segnalo un articolo che fa un primo bilancio, anche se manca ancora tanto alla fine della stagione turistica, perché per noi italiani sostanzialmente, per la maggior parte di noi, finisce con agosto, ma c'è poi una, soprattutto al sud, naturalmente la stagione può essere molto più lunga, quindi è un bilancio parziale, però è un bilancio parziale già positivo. Il turismo premia l'Italia, ci racconta Francesco Prisco a pagina 12 del Sole. Il quadro di instabilità geopolitica aiuta il nostro paese, percepito come sicuro rispetto ad altri, e l'aumento dei vacanzieri è stato di quasi il 10%, con un boom a luglio degli americani, nonostante tutti i problemi valutari anche che hanno, nonostante gli squilibri valutari di questo momento. Comunque gli americani sono tornati con una crescita a due cifre in Italia. Sulla questione del lavoro ai profughi è interessante lo specchietto pubblicato a pagina 13, perché si vede proprio come in questo momento siano distribuiti, quindi a seconda delle regioni, quindi c'è lo specchietto che indica le regioni, poi quanti immigrati si trovano nelle strutture temporanee, quali nei cosiddetti hotspot, che sono quelli dove dovrebbe essere fatta una prima identificazione, quali nei centri poi di prima accoglienza e la distribuzione per regione. Le regioni che ne hanno accolti di più sono Lombardia e Sicilia, con il 13 e il 10%. Quelli che ne hanno raccolti di meno sono la provincia autonoma di Bolzano, quella di Trento e la Val d'Aosta, con percentuali dell'1%, 0,8 e 0,2. E sulla questione di come innescare un circolo virtuoso facendoli lavorare e quindi creando anche un vantaggio per il paese che ospita questi migranti, c'è un articolo, un'analisi dell'economista Giorgio Bava Navaretti, che si intitola "Con l'impiego dei rifugiati, benefici anche per il PIL". Secondo per esempio un'analisi del Fondo Monetario Internazionale, l'impatto positivo dei migranti sulla crescita europea entro il 2020 sarà di un quarto di punto. L'Italia ha bisogno di politiche attive, quelle di cui parlavamo prima, come quelle che ci sono in Germania, che aumentino il tasso di occupazione di chi è presente sul territorio. Per un angolo sempre un po' originale sulle Olimpiadi, al di là dei risultati e del medagliere, Maria Luisa Colledani, la nostra collega inviata a Rio, oggi fa questa analisi interessante sul fatto che tra i campioni olimpici la percentuale di laureati è molto alta, anche perché sono ragazzi molto giovani, che forse appunto come ci sono addirittura ragazzi di 17-18 anni, non hanno neanche iniziato all'università, ma il 13% dei nostri olimpionici ha una laurea. La percentuale più alta è nell'atletica. Cioè, per esempio, una intervista appunto a un atleta che è laureato, è ingegnere in particolare, che è Daniele Meucci, il maratoneta, ma anche la pallanuotista Tania Di Mario, che anche lei è laureata. Il focus estate del Sole 24 Ore nella sezione norme e tributi, sapete, una guida molto pratica per i professionisti su tutte le novità legislative degli ultimi mesi e che attendono tutti alla ripresa a pieno ritmo del lavoro dopo la pausa di agosto, è dedicata alla gestione delle crisi aziendali, con tutti i vari temi, quindi il ruolo operativo che hanno i professionisti, la consulenza, lo trovate a pagina 28-29, e anche quello che succede quando un'azienda ha un credito o un debito con una banca che entra in crisi, quindi indicazioni molto pratiche. Sulla questione della cannabis torniamo un attimo sul Corriere, perché oltre alle dichiarazioni di ieri, Raffaele Cantone ha poi rilasciato un'intervista ad Alessandra Arachi, una vera e propria intervista al Corriere della Sera, e il titolo scelto è, a proposito appunto di ammettere errori o marci indietro, sbagli del passato, Alessandra Arachi titola proprio su questo stralcio dell'intervista di Cantone: "Ero contrario, ho cambiato idea da quando i miei figli sono cresciuti", ma insomma su questo avete già sentito molto, comunque per chi vuole, l'intervista sul Corriere a pagina 19. Proprio ieri c'era la notizia di questo accordo di Ryanair, che ha annunciato di investire 1 miliardo nel nostro paese, creando soprattutto delle rotte verso l'Europa in aeroporti minori. Un ascoltatore diceva che avremmo forse dovuto dedicare più spazio a questo tema per capire esattamente in che cosa consiste questo piano. Ricordiamo che per ora è un piano annunciato, però oggi lo fa Repubblica a pagina 13. Lucio Cillis ci racconta proprio, con tra l'altro un grafico molto chiaro che fa il confronto tra con l'Alitalia, la nostra compagnia di bandiera, oddio di bandiera, ormai è la quota di maggioranza è di Etihad, ma in ogni caso è ancora l'Alitalia, si chiama ancora così, e poi quindi un confronto tra le due compagnie. perché il titolo dell'articolo è Ryanair all'Italia, la sfida nei cieli all'ultimo passeggero. E poi c'è anche una mappa di tutti gli aeroporti dove la Ryanair ha annunciato di volare ex novo. E poi, questa è la nota più dolente se vogliamo, per Alitalia, i prezzi a confronto. In economy, per esempio, Roma, Fiumicino, Barcellona, con un'andata il 7 ottobre e il ritorno 10 ottobre, però con un bagaglio che si può spedire, costa 107,61 euro. Con Ryanair stesse date 43,61, quindi meno della metà. E lo stesso, meno della metà, Roma Fiumicino Brindisi, e addirittura un terzo Roma Fiumicino Catania, 99,30 con Alitalia andata e ritorno e 33,93 con Ryanair. E sempre a proposito di scuse, ieri è successa una cosa incredibile, che Donald Trump ha detto, e è successo nella notte, è arrivato anche un CNN alert, quindi quegli avvisi che manda la CNN, ma che tantissimi siti di notizie, network di notizie o giornali mandano, che Trump ha detto sì, in effetti a volte nei comizi scappano dei toni e addirittura forse delle affermazioni perché si è presi dalla foga del comizio, questo fin qui si è spinto. È importante continuare a seguire l'avvicinamento alle presidenziali degli Stati Uniti che si terranno l'8 novembre, perché gli Stati Uniti sono ancora oggi, anche se incalzati dalla Cina, la prima potenza mondiale. E qui un altro scrittore, Giuseppe Culicchia, sulla Stampa ha intervistato un suo collega americano, Percival Everett, e ci parla di Trump, che viene definito un narcisista, e proprio perché è così vanitoso, la vanità lo farà perdere. L'America offre a tutti un'opportunità, persino uno come lui può correre per la Casa Bianca, volendo vedere anche appunto la parte positiva di una candidatura che chiaramente questo scrittore vede come negativa. Vedremo nei prossimi giorni, perché è di 2 giorni fa la notizia che comunque Trump, visti i sondaggi che lo vedono in netto calo rispetto a Hillary Clinton del Partito Democratico, ha fatto anche molti cambiamenti nello staff della sua campagna elettorale. In quel caso però, nonostante l'ammissione di aver detto delle cose un po' fuori dalle righe, in quel caso però, guardandole come è stato fatto questo cambiamento nello staff della campagna elettorale, ci sono, scrivono tutti i commentatori, persone con posizioni ancora più dure, ancora più estreme, quindi vedremo se nei prossimi giorni arriveranno altre dichiarazioni forti. Dal Messaggero un aggiornamento che sugli altri giornali non c'è, ma ne abbiamo parlato talmente tanto che io credo che anche chi non abita a Roma sia un po' curioso di vedere come andranno a finire le due vicende delle due disastrate municipalizzate, da una parte l'AMA, quella che si occupa di rifiuti, e dall'altra l'ATAC, che si occupa di trasporto pubblico. 2 pagine sul Messaggero, una dà conto di quello che è successo ieri nella giunta, è stato scelto un direttore generale ma a tempo e sono state bloccate tutte le nuove nomine. Invece per l'ATAC, sempre il Messaggero spiega, altra tegola sui conti, i fondi per la metro A, una delle metropolitane romane, sono da restituire al comune. La delibera di giunta prevede solo un prestito ponte di 18 milioni per i lavori sulla linea e punta al recupero di alcune delle somme stanziate. Sull'Avvenire, come sempre, approfondimenti su paesi e crisi di cui magari sugli altri giornali nessuno si occupa. In questo caso, oltre naturalmente, come abbiamo visto, a dare lo spazio maggiore alla guerra in Siria e al salvataggio ad Aleppo del bambino di 5 anni, l'Avvenire ci spiega anche come anche le Filippine abbiano molti problemi. Il titolo è: Duterte, il leader in carica dal 30 giugno, va alla guerra, tra parentesi, a modo suo. Il presidente arruola dei vigilantes per ripulire le strade, che quindi si riempiono di morti, perché nelle Filippine c'è un problema grandissimo di piccola media criminalità che appunto fa strage nelle strade. Un altro approfondimento dall'estero, sempre sull'Avvenire, anche qui io mi ero persa quest'altra tristissima vicenda che colpisce anche in questo caso soprattutto le popolazioni civili, riguarda Haiti, dove 6 anni fa c'è stata un'esplosione di colera, e sapete che colera può uccidere in pochissimi giorni, e ieri l'ONU, oltre a tutto quello che sta facendo sul fronte siriano, ha anche ammesso di aver avuto un ruolo nella sua diffusione diffusione o comunque nel non fare abbastanza per bloccarla. E ora, ha dichiarato l'ONU, dobbiamo fare di più per i colpiti da questa epidemia. Un tema che all'avvenire sta molto caro, dovrebbe stare caro a tutti in realtà, quello della diffusione del gioco d'azzardo, in particolare tra i giovani e negli ultimi anni, da quando c'è stata la crisi, tra i disoccupati, e il fatto che si discute sempre, come accade peraltro anche con gli alcolici e le sigarette, sul fatto che da una parte sono abitudini quelle del gioco d'azzardo, del fumo e del bere alcol, che possono sfociare in una dipendenza e creare problemi gravissimi di salute a chi ne è vittima, e d'altro canto però su tutti questi prodotti lo Stato guadagna con le tasse. E la notizia è che la Lombardia fa eccezione sulla crescita del gioco d'azzardo. Lo racconta l'Avvenire, che spiega che nel 2014 sono calati del 25% appunto le imprese che si occupano di gioco d'azzardo. Dalle pagine interne di Libero, una buona notizia, ricorderete tutti quel video, che è soltanto naturalmente ha documentato uno dei tantissimi casi di abbandono di cani, e non solo, di gatti, anche di altri animali, prima delle vacanze estive. Però quel video ha colpito particolarmente perché nel comune di Boffalora una telecamera ha proprio filmato una macchina con due persone a bordo che si apriva, faceva uscire il cane, che in un primo momento era contento come tutti i cani quando vengono liberati in un prato, ha subito fatto una corsetta, ma è giusto il tempo di finire la sua corsetta di assaggio del momento di libertà, e ha dovuto rincorrere e poi si è arreso la macchina che lo aveva abbandonato, che si è allontanata. La buona notizia, appunto, vi dicevo, è che poi questo cane naturalmente per questo cane è stata richiesta l'adozione. Ora ci sono tantissime famiglie che si sono dette disposte ad adottarlo. Una notizia che devo dire trova questo spazio solo sul giornale, gli altri così passato un po' sottotono, se ne è parlato nei telegiornali di ieri, perché ieri c'è stato quella che viene definita una tragedia sfiorata vicino a Varese, e avrebbe potuto essere l'ennesimo femminicidio. Il potenziale assassino è un tunisino di 54 anni, appunto residente a Samarate, che è vicino a Varese, e ha tentato di bruciare la moglie e il figlio. Sono intervenute le forze dell'ordine e la tragedia appunto è scampata, e lui naturalmente è stato arrestato. Sul Manifesto, molto interessante, a pagina 8 e 9, un lungo approfondimento con anche una mappa che ci fa vedere le differenze e anche chi sta con chi tra Al-Qaeda e il Califfato. Tra i seguaci del gruppo formato da Bin Laden, quindi Al-Qaeda, più legati ai territori, e quelli invece fondati del gruppo fondato da al-Baghdadi, cioè l'ISIS, l'Islamic State of Iraq and Syria, più attenti alle affiliazioni, in furia la battaglia per l'egemonia sulla Guerra Santa. Quindi non solo appunto hanno dichiarato guerra all'Occidente, ma si fanno anche guerra tra di loro. Vediamo a temi anche qui un pochino meno legati alla cronaca. Sul tema del sport e università abbiamo visto sul Sole 24 Ore questa analisi di come la percentuale di laureati sia la più alta in assoluto sia tra i campioni dell'atletica. Invece il Corriere, a pagina 23, con Antonio Ricchio, ci racconta calcio e lode. Che cosa significa questo titolo? Che il football entra nelle università in Inghilterra, ma anche da noi, come fenomeno sociale, culturale e sportivo che va anche studiato. E c'è una mappa dove ci sono corsi accademici sul tema calcio. In Italia per ora ci sono a Torino, Pavia, Roma, Bologna e Milano. E poi un articolo bellissimo, secondo me, per chi ama questo delizioso animaletto che è il riccio. Si parte dal fatto che per tanti motivi, non del tutto chiari tra l'altro, stanno molto diminuendo in tutti i paesi. In particolare c'è una statistica che viene dal Regno Unito che spiega che nel 1950 nel Regno Unito c'erano 30 milioni di ricci, oggi rimane solo il 5%. E quindi Paola De Carolis, che spesso si occupa di temi legati all'universo degli animali, non solo da compagnia, ci spiega come ci siano già 4 petizioni petizioni e 4 garanti nazionali nel Regno Unito, l'Inghilterra in soccorso dei ricci. E ci sono due foto bellissime, una in particolare di un piccolo riccio che viene alimentato come si fa con gli animali che non hanno avuto la sfortuna di perdere la mamma e quindi lo svezzamento naturale, viene alimentato con una piccolissima siringa piena di latte. Questo è a pagina 22 del Corriere della Sera. A proposito della questione dell'integrazione dei profughi, un primo esempio viene da Milano. Nel supplemento dedicato a Milano del Corriere della Sera si spiega come alcuni profughi saranno al lavoro già da settembre. È un piano annunciato ieri dall'assessore Maiorino, che ha anche specificato: non lo faremo tagliando i fondi ai disoccupati, quindi vediamo come andrà questo esperimento. Dalle altre storie un po' particolari, ultimissima segnalazione, prometto a Paolo Corleoni in regia, è dalla Stampa questa bella storia raccontata da Giuseppe Marcenaro, Napoleone in esilio all'Elba, una biblioteca da Reader's Digest. Aveva appunto molti libri Napoleone Bonaparte, che è poi morto a Sant'Elena nel maggio del 1821, e questa biblioteca ora, che era nella villa di Portoferraio, verrà trasferita in modo digitale ad Abu Dhabi per iniziativa dello sceriffo proprietario del Manchester City, che è un amante della lettura, così come era evidentemente Napoleone. Ultima segnalazione per oggi, ancora un grazie a Paolo Corleone, un grazie a tutti voi anche per i messaggi che avete mandato. Mi trovate anche su Twitter, Giulia_Crivelli, su Facebook. Ci sentiamo domani verso le 7:30 per una rassegna dei settimanali. Una buona giornata a tutti e mi raccomando, restate con noi per Ma cos'è quest'estate, con gli approfondimenti legati alla cronaca.